Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Il Milan ha un punto solo dallo scudetto, il Brescia sempre più vicino alla retrocessione e stasera il match point della Lazio contro la Juventus per il quarto posto. È l'estrema sintesi di questa quart'ultima giornata di campionato, che ha visto anche Francesco Totti scavalcare Baggio nella classifica cannonieri di tutti i tempi. E questi sono i primi numeri di giornata che vi propongo, in particolare un identikit di Totti tracciato da Franco Piantanida. Allora, 206 gol in Serie A, il primo del 4 settembre 94 al Foggia. La scomposizione è la seguente: 57 gol su rigore, tutti di destro, 17 gol su punizione, 14 gol di testa, 30 gol di sinistro, 88 gol di destro. Ultima curiosità recentissima, cioè legata a questa stagione, con Ranieri Totti aveva avuto 21 presenze e 4 gol, con Montella 8 partite e 9 gol del capitano della Roma. Vi dicevo dello scudetto ormai praticamente arrivato al Milan, nonostante l'impennata finale di Pazzini di sabato nel tardo pomeriggio a Cesena. Allora, il segreto di questo scudetto, nelle parole di uno dei suoi protagonisti assoluti, soprattutto nella fase finale della stagione, e cioè Seedorf. Io credo due cose. Credo che durante tutta la mia carriera mi sono curato bene, non bevo, non fumo, sono uno che lavora sempre negli allenamenti, mi curo sia fisicamente sia mentalmente, e credo che sto raccogliendo adesso i frutti, per lo quale anche questa stagione, sin dall'inizio, credo che sono stato come gli altri anni. L'età è legato, c'è un'età, io non so se questo voi credete o no, comunque c'è un'età biologica, c'è un'età anagrafica. La mia età biologica è sicuramente molto inferiore a quella anagrafica, e questo è un dato di fatto. La vittoria è una vittoria per tutti, io sono solamente felice di poter raccogliere questo momento della mia carriera. E sono molto contento che anche nel suo anno, primo anno di Allegri, che può raccogliere già diciamo una coppa che comunque è a un passissimo. 13 rigori a favore della Roma in 35 giornate di campionato. È non è ancora un primato, perché il primato storico appartiene al Milan nella stagione 1950-51. Era una stagione anche quella a 20 squadre, quindi con 38 partite. Il Milan quell'anno ottenne la bellezza di 18 rigori in 38 partite, ma la Roma con 13 ha superato. Da allora non c'era mai più nessuno ha mai più avuto 13 rigori a favore in una stagione. Questo potrebbe autorizzare qualche riflessione, tipo Stefano che da Udine scrive: secondo lei è populismo pensare che per il sistema calcio sia meglio che una delle due romane vada in Champions a discapito di una piccola come l'Udinese? Stefano, non lo so, io so che se si prendono però 5 gol a Firenze contro una squadra come la Fiorentina, che per segnare 5 gol in media impegnava fino adesso, insomma, impiegava 5-6 partite, credo che siano discorsi che stanno in piedi fino ad un certo punto. Altri numeri li ascolteremo più tardi insieme ai vostri interventi in diretta. Adesso inizia un omaggio e un raffronto tra Totti e Baggio con una voce di Francesco Totti. Il gruppo è unito, il gruppo ha voglia di dimostrare che è ancora vivo e lotteremo fino alla fine. Se oggi avessimo pareggiato, penso che sarebbe finito tutto, e invece stare a un punto dalla Lazio gli metteremo pressione. Adesso stare a loro, fare una grande prestazione e ottenere 3 punti. Da quando ieri sera Francesco Totti ha superato Roberto Baggio nella classifica dei marcatori di tutti i tempi e si è portato adesso all'attacco di gente che si chiamava Meazza e si chiama Altafini, insomma, la grande suggestione è diventata questa: più Totti o più Baggio? Chi dei due merita in una classifica ideale di stare davanti? Sono da una parte argomenti senza senso e dall'altra sono quelli che più appassionano da un punto di vista popolare. Allora io vi propongo l'opinione di un tecnico che ha passato in panchina solo 38 anni, che ha fatto l'allenatore soltanto per 1277 partite ufficiali, battendo il record assoluto che apparteneva a Nereo Rocco. Un allenatore che ha avuto per le mani Totti giovane e l'ha fatto debuttare, e l'ha lanciato in Serie A, e ha avuto per le mani Baggio vecchio, con tutto il rispetto che si deve. E quindi bentornato a Carlo Mazzone, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie. Mazzone, io penso che nessuno più di lei possa, io non, se poi lei vuole avventurarsi in una classifica ideale tra i due, cioè dire chi dei due è stato più forte, io so che la metterei in imbarazzo. Sì, sicuramente, anche perché di Francesco Totti parliamo del debutto e della giovane età, quando io l'ho avuto, no? Sì. E l'altro invece, diciamo, alla conclusione della sua carriera. Però voglio sempre sottolineare una cosa: Roberto Baggio è stato emarginato dal calcio italiano, tant'è vero che stava a casa, così come un classico pensionato. Io lessi, ma poi sapete questa storia, è una storia lunga, io lessi su un giornale che sembrava che Roberto Baggio andava alla Regina, poi io ho avuto un carissimo amico che purtroppo non c'è più, Cesare Medori, suo amico, e lo rintracciai attraverso una telefonata, gli feci una proposta se voleva venire a giocare un calcio forse più reale ai suoi mezzi tecnici, che era quella dal Brescia, e parlai con Corioni, che fu bravissimo, mi accontentò subito. Però il calcio italiano lo aveva già emarginato, sì. E quel Brescia fece 3 anni con me e poi andai via, e fece, insomma, il Brescia permise a Roberto Baggio di allungare la sua carriera per 4 campionati. Ecco, ho voluto sottolineare questo. Giustissimo. Va bene. Invece Francesco Totti io l'ho avuto da ragazzino, l'ho fatto crescere, l'ho fatto maturare, gli sono stato vicino, c'erano delle telefonate continue con la mamma. Perché era un po' discolo, perché andava cresciuto un po'? No, perché c'aveva 17 anni, ragazzo, certo, giovanissimo, certo. Andava in Vespa, mangiava tanti gelati, c'aveva qualche ragazzetta, insomma. E allora io attraverso la mamma siamo riusciti a farlo crescere, ecco, questo, certo. Qui più che il giocatore, io ho curato il ragazzo, che io avevo la sensazione che questo ragazzino aveva dei mezzi tecnici elevatissimi. Meno male per lui, per me, per tutti che non mi sono sbagliato nel giudizio. No, lei l'ha lanciato a 17 anni e mezzo, il debutto 27 febbraio 94 con lei sulla panchina della Roma, e pochi mesi dopo il primo gol in Serie A, il 4 settembre del 94, quando Totti stava per compiere 18 anni, primo gol di questi 206 al momento. Torniamo in compagnia di Carlo Mazzone. Lei si sarebbe, vedendolo allora, si sarebbe immaginato una trasformazione di Totti? Io cerco di ricordarlo, a quei tempi era nato un po' come la mezza punta, come il fantasista, diciamo alla Baggio come usava allora, ma con un fisico che poi gli ha permesso una trasformazione, forse. Ma il ragazzo sicuramente aveva delle qualità tecniche elevatissime. Questo sì, la mia prima impressione è stata questa. È chiaro che anche la struttura fisica non era delle migliori, perché era ancora in formazione. Sì. Però insomma, è chiaro che aveva dei mezzi abbastanza elevati anche sul piano fisico, perché la massa muscolare era abbastanza accentuata, anche nei test aveva anche una buona resistenza organica, insomma il giudizio era positivo. Però sarei un grande presuntuoso se io dicessi adesso, per tutto quello che lui ha fatto, ma io avevo capito. No, io avevo semplicemente visto che questo ragazzo aveva delle potenzialità grosse, e che andava gestito e fatto crescere in un ambiente molto difficile, come può essere Roma, una città meravigliosa che offre di tutto. Io per cui lo seguivo anche nella vita privata, diciamo. Certo. Mazzone, dunque, avevamo un giocatore che era il classico numero 10, che si è trasformato poi lentamente in un numero 9. Prima, secondo me, sempre per come l'ho visto io Totti, prima in un numero 9, diciamo, arretrato alla Ide Guti, no? Che è stata un'interpretazione modernissima di quel ruolo di centravanti arretrato, ispiratore, eccetera. E poi addirittura nel ruolo di punta pura. Ora, secondo lei, che coppia sarebbero stati adesso, per come si è evoluto Totti, che coppia sarebbe stata quella con Totti un po' più avanti e Baggio appena alle sue spalle? Beh, io penso sicuramente sarebbe stato un tandem veramente, veramente forte sul piano tecnico. Sicuramente non avrebbero avuto problemi loro. I problemi sarebbero stati sicuramente di chi gli giocava contro. Questo è sicuro. La qualità tecnica dei destri due giocatori è elevatissima. Il linguaggio parlava la stessa lingua. Questi giocavano a calcio veramente bene. È solamente, ecco, che Roberto Baggio ha avuto problemi fisici veramente di grande certo. Livello, che ancora in vecchiaia, quando l'ho avuto io ragazzo, prima degli allenamenti era costretto a venire in palestra e fare un lavoro di forza sul quadricipite, penso, insomma era sempre un po' penalizzato, ecco. Allora ecco che questo record, diciamo, acquista ancora più valore, pensando che il giocatore non ha giocato al 100% delle sue possibilità tecniche, ma ha sicuramente condizionato da questo infortunio al ginocchio. Giustissimo. Senta, ma a lei gli allenatori magari contano meno di quanto oggi non si dica, no? Oggi sembra che le partite le vincano Mourinho o Guardiola, con tutto il rispetto, e non più i giocatori. Però quanto c'è di orgoglio in lei nell'aver in fondo avuto il miglior Baggio, nell'aver presentato il miglior Baggio di club? Perché Baggio è un giocatore che è passato alla storia più come un uomo dell'Italia, no? che non del Milan o dell'Inter o della Juventus. Semmai lo è passato come un uomo del Brescia. Ma io adesso questo dovrebbe essere un atto di presunzione, che sia ben chiaro. Voi sapete che il sottoscritto tutto può essere, meno che, come dicono a Roma, un fanatico. Il discorso è questo, che io ho sempre allenato prima l'uomo e poi il giocatore. Io penso che probabilmente qualcuno aveva commesso qualche errore parlando solamente al giocatore. Io invece prima di tutto, per me era la cosa più importante era l'uomo, il suo carattere, i suoi pregi, i suoi difetti, i suoi problemi. Io per esempio, se vedevo un giocatore che si chiudeva in se stesso, ero preoccupatissimo, mandavo i miei collaboratori alla carica per ascoltare se c'avevano qualche problema familiare, problemi, insomma, se non stava bene, e poi intervenivo io. Io penso che l'allenatore innanzitutto deve capire l'uomo e poi deve allenare il giocatore. Queste voci, queste diciture io non le ho mai lette né sentite, ma non perché, ritornando, forse perché venendo dalla provincia avevo anche necessità di far rendere al massimo tutti, perché erano i nostri giocatori, facevano parte del nostro club, che un club che non poteva poi far fronte ad altre situazioni. Certo. Se io bruciavo dei giocatori, se io avevo dei scontri con i giocatori, che nel rapporto non c'era con i giocatori. E allora, così facendo, forse mi sono cresciuto anch'io con questa mentalità: prima l'uomo e poi il giocatore. Torniamo uomo e giocatore, torniamo a Totti allora. Io insomma mi sarò perso qualcosa, ma mi pare che, senza voler fare polemica con nessuno, ma due o tre mesi fa fosse un giocatore che entrava a stento, magari entrava due minuti alla fine. Sì, è vero. Questa però, invece sta domanda, invece di farla a me, dovrebbe fare ai suoi colleghi di Roma. Perché? Quali si sono divertiti per tanto tempo dimostrando incapacità, tra virgolette, nei giudizi tecnici, e davano Francesco Totti come un peso sullo stomaco della Roma, l'uomo in più della Roma, il giocatore che ormai aveva finito la sua carriera. E io non capivo perché tutto questo. Io capisco che a 33-34 anni ci può essere un periodo di flessione, l'infortunio, il recupero se un po' più tardivo, qualche prestazione non brillantissima, invece no, finito, chiuso. Adesso come la mettiamo? Però Mazzone, colleghi per colleghi, io c'ho i miei. Però lei c'ha i suoi, lei ce n'è uno che adesso l'ha rigenerato Totti puntando tutto su di lui e si vede che cosa ne ha in cambio. Prima ce n'era uno che lo faceva entrare a due minuti alla fine. Sì, ma ho capito, ma adesso questo però la critica non era all'allenatore, la critica era al giocatore. Era al giocatore, dice lei. Era dato, e quando giocava dai 90 minuti non erano mai soddisfatti, probabilmente le prestazioni in quel momento non erano delle migliori, sicuramente, però c'è stata una caccia spietata su Roma, ci sono delle registrazioni di questo genere, mica non è che io mi invento più di tanto, perché più di una volta mi invitavano a polemizzare, io sono stato sempre abbastanza elegante non ho mai condiviso, però ho lasciato fare. Però non era il sistema, ma Roma purtroppo, devo fare un piccolo messaggio, già l'ho fatto più volte, e a Roma i re come i re Revucci, come vogliamo fare, sì. Grandi personaggi, no? Si sono graditi fino a un certo punto, perché anche Giannini, sì. Sicuramente che non ha avuto diciamo lo spessore tecnico di Francesco Totti, però lì vicino, un capitano della Roma, giocatore importante, nazionale, eppure lui come ha avuto, a Roma lo sanno, che l'età passa pure per i giocatori, lo sanno i miei concittadini romani. Mazzone, io non è una domanda veramente imbarazzante, non le chiedo dalla torre chi dei due butterebbe, perché sarebbe la crudeltà mentale, neanche. No, ma lo credo, perché tra Totti e Baggio vorrei ancora debuttarsi. No, le chiedo un'altra cosa, le chiedo dall'alto della sua carriera, della sua esperienza eccetera, chi dei due le ha scaldato di più il cuore, chi le ha dato più emozioni? Anche perché io penso Roberto Baggio, perché Roberto Baggio diciamo era già maturo, era sì. Già pronto ed era motivatissimo perché anche lui il calcio italiano l'aveva emarginato, questo non credo che sia offensivo per Francesco Totti, assolutamente, il ragazzo c'aveva 17 anni, è ovvio. È un'esperienza, io le ho chiesto l'esperienza sua, quindi esatto. No, non credo proprio che questo possa essere una diminuzione, al massimo può far contento Baggio, ma certamente non credo che si offenderà Totti. Sa cosa, e così chiudiamo questa conversazione, di cui la ringrazio molto sin d'ora, sa qual è un po' il problema, per il mio, che mette un minimo di malinconia, è che oggi nel panorama panorama italiano, cioè nel panorama di talenti nostrani, io di Baggio e di Totti sarò miope, ma non ne vedo mica. No, siamo in due. Siamo in due. E facciamo... Siamo in due a non vederli. E facciamoci compagnia allora, no? Tra noi, sì, che siamo. Sperando che prima o poi sia lei che io si possa avere degli occhiali buoni per vedere. Certo, e a quel punto ci risentiamo e diciamo: eccone uno. Eccone uno, sì. Grazie, Mazzone. Tante cose, saluto, un abbraccio. Notizia proprio di pochi istanti fa, il direttivo dell'Associazione Italiana Calciatori ha indicato Damiano Tommasi come successore del dimissionario Sergio Campana, storico presidente, alla guida del sindacato calciatori. La nomina dovrà ora essere ratificata dall'Assemblea dell'AIC in programma il 9 maggio. Dunque tocca a Damiano Tommasi, certamente una delle persone migliori, al di là che è stato anche un signor calciatore, una delle persone migliori espresse dal calcio italiano negli ultimi vent'anni. I primi interventi di oggi, da Roma ha chiamato Mario, buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, innanzitutto è doveroso da parte mia ringraziare il signor Mazzone, mi fa ritornare indietro di 20 anni, 30 anni, quando era a Catanzaro, io giovane, ultra del Catanzaro, gli anni bellissimi del Catanzaro, purtroppo adesso è in fallimento. Quindi grazie ancora a grande Carletto, un grande uomo di sport, ma anche un grande uomo di vita. E poi devo fare una considerazione sul campionato, un flash, un campionato voluto fortemente da Berlusconi, e nessuno si è opposto. Grazie, buongiorno. Beh, lo credo, con quello che ha investito, secondo lei avrebbe giocato per perderlo? Io credo che se c'è un campionato su cui non è lecito, io recentemente ne ho visti di campionati su cui verdetto si poteva discutere, poi ho detto discutere, non di più, sul cui esito, ma su questo mi pare proprio che non ci siano discussioni, e secondo me per due ragioni che concomitanti. Uno sono i meriti del Milan, non eccessivi, ma i meriti del Milan, e due sono i demeriti delle altre, a cominciare dall'Inter. E quindi non vedo proprio, diciamo che se la sua era una battuta non è semplicissima da capire. Daniele, provincia di Ravenna, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Io sono Daniele, il camionista. Salve. Senta, io due cose le volevo dire. Una, sono con lei sull'analisi che ha fatto adesso sul Milan, e poi volevo dire una cosa. Io sabato ho visto la partita Cesena-Inter. Leonardo sarà un grande uomo veramente, però io, secondo me, quello non è il suo mestiere, fare allenatore. È nato con la camicia, perché se non si fa male Pandev, quel cambio lui non lo farà mai, secondo il mio punto di vista. Devo sapere cosa ne pensava. Grazie, una buona giornata. Io invece mi sono risparmiato la partita, quindi sinceramente non ho sufficienti, insomma, non le posso rispondere in maniera compiuta. Ho il sospetto che possa anche essere, come dice lei, relativamente al cambio tra Pandev e Pazzini, e invece magari no. La sentenza, no, sinceramente non la condivido. Piero Milano, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini, un saluto anche a Damiano Tommasi, se è già lì. No, Damiano Tommasi è appena stato nemmeno eletto, indicato dal direttivo dell'Asso Calciatori come successore di Campana. Ah, successore di Campana, perfetto, non ho colto la notizia. No. Allora, il mio intervento era questo, un po' generale, però in realtà volevo toccare un aspetto particolare. In generale sul calcio italiano dico che io ormai difficilmente guardo partite del campionato italiano, perché è veramente uno spettacolo desolante. Le chiedevo... parlo di pubblico, di aspetto tecnico, diciamo che mi occupo di calcio giovanile, sono direttore sportivo, quindi mi dedico a quello e mi basta oggi come oggi, anche se lì ci sarebbe molto da discutere. Le chiedevo sempre, a proposito del calcio italiano, De Rossi, che De Rossi ormai è l'emblema forse della deriva, io dico anche morale, ma non voglio massacrare l'uomo, però insomma questi, diciamo, di comportamenti, ecco, perfetto, forse morale non è corretto, diciamo di comportamenti. Io non capisco cosa succeda, beh, diciamo quest'uomo, perché dire questo ragazzo mi sembra che ormai si avvicini forse alla trentina, non lo so, perché di queste reazioni assurde, non so, poi girano delle favole a Roma, ma non voglio neanche menzionarle, non so cosa ci sia dietro, però fatto sta che questo ragazzo non riesce a recitare il ruolo che forse tecnicamente come giocatore meriterebbe, ma è limitato tantissimo ormai da queste continue questi continui atteggiamenti. Tutto sì, qua, l'ascolto non per radio. Grazie. Non c'è dubbio, è una amara constatazione, no? di questi ultimi tempi. E oltretutto questi comportamenti, cioè questo cedimento sul piano nervoso, che ha probabilmente origine da problemi personali, evidentemente ne condiziona poi anche il rendimento sul campo. De Rossi non è più, ma non è più da secondo me da almeno un paio di stagioni, non è più il grande centrocampista che era. Io credo che da 4 a 2 anni fa, adesso così a spanne, era secondo me era certamente nei primissimi d'Europa nel suo ruolo, se non il primo in assoluto, comunque uno da podio, e da allora no, da allora è un giocatore prezioso comunque, che sa rendersi utile sempre per come sa stare in campo, per come ha innato il senso il senso del calcio in quel ruolo, in quello che Brera chiamava il mare magno del centrocampo, dove bisogna avere un grande senso dell'orientamento e una grande capacità di autonomia per orientarsi, ma soprattutto poi per diventare protagonisti. Però gli rimane, ecco, gli rimane questa cosa di fondo, ma certamente ha perso la brillantezza, lo smalto, l'inventiva e ha perso soprattutto il controllo, l'autocontrollo, troppo spesso, e questo è il vero limite. Ancora un ascoltatore, poi torniamo a sentire qualche contributo, per esempio sulla zona retrocessione, che mi sembra la più drammatica in questo momento, come in questo momento non solo, perché il dramma vero è sempre quello di retrocedere, dramma sportivo intendo. Massimiliano da Savona, buongiorno. Buongiorno Granzini. Senta, una cosa bellissima, mi è parso di ascoltare durante quella bellissima intervista con Mazzone, che si sia detto che il miglior Baggio era stato quello di Brescia. Io oserei dire che il miglior Baggio, a mio parere naturalmente, è stato quello di Bologna, dove veramente ha dato quel qualcosa in più alla squadra, che poi tra l'altro lo ha portato anche ai mondiali. Di conseguenza forse il miglior Baggio che si è visto in campionato sia stato proprio quello lì. Poi molto bella l'idea del Baggio dietro Totti, forse realizzabile in Italia, perché mentalmente non siamo preparati a questo, però sarebbe stato bellissimo se fosse stato possibile. la ringrazio, sì, in effetti credo che una coppia del genere sarebbe stata semplicemente perfetta, soprattutto per l'evoluzione che hanno avuto nella carriera, no? Visto che Baggio è rimasto se stesso, ma Totti ha avuto invece questo, perché all'inizio sono partiti nello stesso ruolo, o quasi, poi uno era più goleador, l'altro era più rifinitore. Totti a inizio carriera aveva più gusto a mandare in porta i compagni che non a segnare lui. Baggio invece ha sempre avuto un fiuto innato per il gol, è sempre stato più attaccante. Totti lo è diventato poi strada facendo e alla fine per necessità, da quando Spalletti si è inventato quel modulo. È vero che Baggio, il grande Baggio, è stato anche il Baggio del Bologna, ma intendevo dire che è stato il Baggio di fine carriera, quello più convincente in assoluto se parliamo di club. In rapporto anche alla grandezza dei club in cui ha giocato, no? Perché essere ricordato oggi per delle stagioni strepitose giocate da vecchio nel Bologna e nel Brescia, e più che per le stagioni giocate da giovane in Juventus, Inter e Milan, beh, insomma, mi pare che sia una singolarità, effettivamente. Le voci che arrivano dalla salvezza, allora sappiamo che sono rimaste in poche ormai a lottare, perché insomma, anche se non aritmeticamente, mi pare che con le vittorie di ieri, il Chievo soprattutto, ma anche il Parma e probabilmente, quasi certamente, che il Catania si sono tirate fuori. Quella che è più inguaiata di tutte è certamente il Brescia. Il Brescia di ieri, secondo me, se non altro per coraggio e per iniziativa, avrebbe meritato di vincere a Marassi, se non altro perché è passato in vantaggio tre volte nel secondo tempo e per tre volte ha vanificato il vantaggio con errori difensivi, l'ultimo dei quali di Zebinà, abituale e direi almeno altrettanto imbarazzante. E allora sentiamo, sulle residue e ormai minime possibilità di salvezza, sentiamo Iacchini. Spero che insomma fino in fondo ci sarà, tutte queste squadre che ormai sono sotto, le quattro squadre sotto, ci sarà da lottare per far sì che una, che magari due di queste, visto che il Bari, no, è già dietro, riescano a mantenerle sotto. Il campionato di Serie A è strano, Serie A si fa presto a perdere tre partite di seguito. Puoi dire che sì, questa è facile, però può succedere di tutto, perché tutte le squadre sono squadre, magari dipende come si arriva a finale di campionato, con quale condizione fisica, con quale testa, magari ti trovi a perdere qualche partita, due partite, ti assale la paura e quindi perdi anche qualche certezza. Il calcio è fatto anche di situazioni psicologiche a volte, non solo di qualità tecniche o di qualità fisiche. Franco, chiamato da Cesena, buongiorno. Dottor Garanzini, buongiorno. A lei. Io però, per buon patriottismo romagnolo, concordo un attimo sui sospetti destati di questo campionato, l'ascoltatore di Ravenna che ha chiamato poc'anzi. Perché io ho assistito alla partita Cesena-Inter di sabato, cioè un Inter che aveva regalato la vittoria al Parma, regalata proprio perché ha giocato 96 minuti nella sua metà campo, e a Cesena ha giocato alla morte. Probabilmente, sicuramente Cesena non ha le possibilità finanziarie di altri club per poter arrivare ad accordi con grandi società, però secondo me è un campionato un po' falsato. Ma secondo lei, mi scusi Franco, sono ma troppi risultati. Franco, mi scusi, una squadra che gioca alla morte, cioè una squadra nettamente superiore all'altra, perché credo che l'Inter sia superiore al Cesena, almeno questo mi risulta. No, i valori espressi purtroppo. Ben per il Cesena, per Ficcadenti, che Ficcadenti ha No, ma la domanda, mi scusi, la domanda è un'altra. Lei ha detto giocare alla morte. Secondo lei l'Inter che gioca alla morte contro il Cesena è sotto al 91esimo? Cioè, se la partita, cioè, com'è che l'Inter ha giocato alla morte e al 91esimo stava perdendo? Ma com'è che a Parma invece ha fatto 96 minuti dietro? No, questo no. Questa è una sua opinione, evidentemente. Questa è una sua opinione, perché ieri li ha fatti tanto davanti questi 96 minuti. Il destino della partita, come raccontava prima l'ascoltatore, è che a un certo punto si è fatto male Pandev, e facendosi male Pandev è entrato Pazzini. E purtroppo promozioni, scudetti, retrocessioni, eccetera, sono fatte anche da queste casualità. Io credo che in questo campionato l'esempio migliore venga dal Bari, e venga dalla sportività con cui il Bari sino ad ora ha interpretato e continua a interpretare il suo ruolo attuale, che è quello di squadra già retrocessa. Poi può darsi che non tutti abbiano la sportività che il Bari sta dimostrando e continuerà, credo, nelle ultime tre giornate a dimostrare, però da qui a questa disparità di trattamento da parte di una squadra, io credo che più che dati oggettivi c'entri il famoso e celeberrimo tifo. Franco da Napoli scrive: ma lei lo dà solo ai terroni? Dopo Giuliano anche Mazzone ha questa puzzetta sotto il naso, Sabaudo. Franco, do del lei a Giuliano e Mazzone, perché noi Sabaudi siamo educati. Io non conosco personalmente, e me ne dispiace molto, né Giuliano né Mazzone. Chissà perché non ho mai avuto occasione in tanti anni di incrociarli e di conoscerli personalmente. Quindi do loro del lei e loro ricambiano con il lei. Questa a casa mia, perlomeno soprattutto ai tempi miei, si chiamava educazione. Poi se lei la vuol chiamare diversamente, è liberissimo di farlo. A proposito di terroni, uno di quelli a cui più voglio bene si chiama Nicola Filippone, e per oggi, per il 2 maggio, per questo lunedì, ha registrato come sempre una data di quelle curiose, di quelle molto significative e ghiotte, ma poi ne ha indicate anche un altro paio che vi leggerò successivamente. Sembra ieri. 2 maggio 1982. Prima panchina professionistica per Emiliano Mondonico, che guida la Cremonese in trasferta a Lecce. L'ex ala di Torino, Atalanta e della stessa Cremonese è stato promosso dalle giovanili con l'obiettivo di centrare la salvezza. La gara finisce 1-1 e la rete dei Lombardi è realizzata da Gianluca Vialli, che non ha ancora compiuto 18 anni. Mondonico riuscirà a tenere la Cremonese in serie cadetta e 2 anni dopo la porterà fino al massimo campionato. In quasi 30 anni di carriera, l'allenatore di rivolta d'Adda ha ottenuto 5 promozioni in Serie A e ha realizzato 2 autentici miracoli europei, raggiungendo la semifinale di Coppa delle Coppe con l'Atalanta, quando la squadra giocava in B, e la finale di UEFA con il Torino. Bene, Nicola Filippone oggi ha scelto il debutto di Mondonico in panchina. Ne avrebbe avuti altri 2, volendo, ma me li ha segnalati lui stesso, di calciatori ben più celebri, nel senso che in Roma-Fiorentina, il 2 maggio del 37, esordì in Serie A il Fornaretto di Frascati, Amedeo Amadei, che non solo è stato un grandissimo giocatore, ma tuttora è il recordman di precocità di debutto, visto che aveva 15 anni, 9 mesi e 6 giorni, qualcosa meno ancora rispetto a Gianni Rivera. Mentre sempre il 2 maggio del 73 in Nancy Nîmes debuttò tra i professionisti, nelle file del Nancy, un certo Michel Platini, che a sua volta non aveva nemmeno 18 anni. E poi, volendo, per chiudere ci sarebbe un anniversario di Coppa, ma già che ci siamo anche questo è suggestivo: 2 maggio 62 Tre gol di Puskas in una finale di Coppa dei Campioni, ma non bastarono, perché il Benfica quel giorno ad Amsterdam vinse per 5-3, grazie anche alla doppietta dell'astro nascente Eusebio. Lorenzo ha chiamato da Firenze, buongiorno. Buongiorno Garandini. Dica. Ho sentito, parlavate di Baggio, grande Baggio a Bologna, Baggio a Brescia, è stato sempre grande Baggio. Però come tutti gli artisti, Baggio è stato un artista del pallone, gli artisti il meglio lo fanno da giovani, Mozart, io se lo insegno. A Firenze. Da giovane era la Fiorentina, certo. Quella ha fatto la Fiorentina, secondo me non l'ha fatta da nessun'altra parte, perché poi dopo nelle grandi squadre doveva mettersi al servizio della squadra, e invece il genio deve giocare libero. Poi dopo l'hanno fatto giocare libero, aveva anche la maturità ed è ritornato grande. Ma Baggio è sempre stato grande. Sì, ma non c'è dubbio. Tutti gli artisti, l'estero con la Firenze non l'hanno avuto da nessun'altra parte, no. Perché fisicamente stava anche meglio. Beh, ma cioè, certo, partiva da metà campo, arrivava in porta dall'altra parte, non lo faceva più, purtroppo non ce la faceva. Le dirò che ho rivisto qualche gol bresciano negli ultimi tempi, arrivava ancora in porta, se non da metà campo come a Napoli quella volta, ma insomma da poco oltre. Io credo che sia stato, certamente, da giovane era si è visto subito che era un grandissimo, e purtroppo era un grandissimo che doveva fare i conti con la sua instabilità fisica, insomma con i suoi serissimi problemi che anche Carletto Manzone ha ricordato. Ma poi se parliamo di club, ha lasciato più tracce per l'appunto a Firenze, a Bologna, a Brescia, di quanto non abbia fatto nelle tre grandi in cui ha avuto la ventura di giocare. Giovanni Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per avermi chiamato. Senta, io ho una riflessione e poi vorrei sentire il suo pensiero. Sto parlando dell'Inter, sono interista, no? E Leonardo, i criteri che segue quando deve fare la scelta per la formazione. Ha un centravanti che si chiama Pazzini, che è costato 18 milioni, e ha un grandissimo ex centravanti che si chiama Milito, che in questo momento ha le sue buone ragioni perché ha avuto problemi fisici, però che non prende la palla. E poi lo stesso discorso per quanto riguarda Pandev è un ex giocatore, quindi l'Inter ieri scendeva in campo con due situazioni di insofferenza. Io non capisco perché, avendo lì Mariga, Obi e lo stesso Coutinho in mancanza di Schneider, non usi questi giocatori per rendere la cosa meno tragica. Così la stessa cosa per quanto riguarda Thiago Motta è un giocatore che viaggia a due all'ora, va bene per le squadre brasiliane, ma quando c'è da competere con squadre tipo Cesena che lottano per la sopravvivenza, credo che qualcuno debba suggerire a Leonardo, quando fa le scelte, di riflettere in maniera un po' più razionale e non, come posso dire, in maniera affettiva e emozionale. Volevo sapere il suo pensiero, grazie. Ma guardi, il mio pensiero, Giovanni, è che un allenatore come fa sbaglia, e in generale, anche quando vince, come in questo caso, no? Perché l'Inter poi alla fine, seppur in maniera molto avventurosa, ha vinto. Si immagini quando perde, e quindi sì, ma molti motivi, qualche motivo di perplessità c'è, lo condivido in pieno, altri mi sembrano comunque un pochino ingigantiti. Andrea da Padova dice: vorrei avere notizie di Roberto Beccantini, non l'ho più sentito né ho più letto articoli suoi sulla stampa. Roberto Beccantini è felicemente pensionato dallo scorso 30 agosto, quindi ormai non dico quasi un anno, ma insomma ormai da molti molti mesi, e nonostante alcune affettuose e periodiche sollecitazioni da parte innanzitutto della stampa, ma da parte anche di che da parte mia, per esempio, per intervenire, cioè, preferisce in questa fase, vediamo quanto durerà, tenersi lontano, disintossicarsi da tanti e magari troppi, evidentemente, anni di pallone. Il fatto che però qualcuno periodicamente se ne ricordi, credo gli farà molto piacere. In questo caso Andrea da Padova. Riccardo da Brescia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io nell'ascoltare Mazzone parlare di Baggio mi si sono risvegliati dei ricordi di quei fantastici anni e della corsa di Mazzone sotto la curva del Brescia quando abbiamo pareggiato il derby con l'Atalanta. Ci tenevo da compaesano del presidente Corioni a spezzare una lancia a suo favore, che settimana scorsa ha scritto una lettera su un giornale locale nella quale dice appunto di essere arrivato un po' alla pensione da presidente del Brescia, e mi dispiace, e spero che nella città come Brescia, comunque una città ricca di imprenditori e che gran bravi a riempirsi la bocca nei bar e poi quando c'è da mettersi in gioco magari ci ripensano, che qualcuno mantenga un po' quello che sono state le tradizioni del Brescia. E vi ricordo che Baggio a Brescia, indipendentemente dal chi ha chiamato appunto da Firenze, ha veramente dato il meglio di sé. Cioè, comunque guardando le videocassette di Baggio, i gol tra virgolette migliori e le soddisfazioni migliori credo le abbia dato al pubblico di Brescia. Ma sa Riccardo, anche quello è sempre soggettivo. Walter mi ricorda che a Torino Baggio ha fatto più di 60 gol, Baggio ha vinto un pallone d'oro alla Juventus, ma è tutto vero, però insomma non c'è un ricordo straordinario come si sarebbe aspettati da Baggio, senza contare che poi Baggio fu ceduto giovanissimo ancora dalla Juventus stessa, no? E quindi vuol dire che quella non è stata, come dire, la sua esperienza di club più esaltante. Poi esaltante, mi scrive un ascoltatore, riguardatevi i gol di Baggio in Coppa Italia contro la Fidelis Andria, fu esaltante. Vabbè, ma allora se volete stravincere, e con tutto rispetto per la Fidelis Andria, non se ne parla più. Continuiamo domani, riproiettandoci anche su un'altra sfida internazionale di un discreto interesse. Per il momento grazie a Roberto Scaltritti in regia, a Franco Piantanini in redazione, buon pomeriggio.